piace. La mia pelle fa, ridi di questo, il mio flow fa, ridi di questo, le mie rime fanno, ridi di questo, player, ridi di questo, player, ridi di questo, la mia penna fa, ridi di questo, il mio flow fa, ridi di questo, le mie rime fanno, ridi di questo e lo fanno proprio su di te, piangi per questo. Se qualcuno vuole l'esclusivo, arrivo senza preavviso e porto qualcosa di esplosivo. Questo è però il mio mio amico, tu e la tua storiella mi fate bene appena. Scappi come dal suono della sirena, ho tutta la mista in mano sul sedile anteriore. Il mio compare sull'acceleratore, le mie track dentro alle tore. Mancano solo zeri, manca qualche milione che si sputtana creatore in un'isola sotto equatore con qualche puttana al sole. Noi qui cazzo stiamo a farci a strafarci sui quattro quarti, capisci la situazione? Ho già detto che me ne sbatto, fa se non ti piaccio questo è quello che faccio. Ridi di questo se hai coraggio, ho scelte o se a caso spacchi ti prende una chance e parti con a fianco i ragazzi con cui ci rita strade e palazzi. Tu la sai la differenza tra chi spinge un sucker, ora anche tu spingi sta merda perché sai che la mia penna fa, ridi di questo, il mio flow fa, ridi di questo, le mie rime fanno, ridi di questo, player, ridi di questo, player, ridi di questo, la mia penna fa, ridi di questo, il mio flow fa, ridi di questo, le mie rime fanno, ridi di questo e lo fanno proprio su di te, piangi per questo. Ma tu presumi, vero? E se ti dicessi che la presunzione è la sorella di tutte le fregature, bello? Dice la madre di tutte le fregature. Madre, sorella, che cavolo ti pare? Rimane in famiglia, non fa nessuna differenza. Se per caso ti venisse un'idea migliore su come trovare 500.000 sterline nei prossimi giorni, faccelo sapere. Dai player, non ti prendere male, sono qua per farti notare dove cazzo voglio arrivare. Non sono qua per partecipare, ma troppe volte mi danno del pazzo criminale. Perché me ne sbatto il cazzo, chi la spliff baby, che c'è di male? Mentre tu vorresti essere king della scena, ma stai giù perché la tua storia è una messa in scena. L'argomento è sempre il solito, ma in mente un'altra idea diversa da quella di fare scendere i tuoi homies in trincea. Giochi a fare soldato e poi non scendi manco in guerra. Dimmi cazzo farai quando i soldati stupreranno tua sorella. Ma ho capito una cosa, ascolta, che se ridi quando tutto va a puttane, perché già ho trovato a chi dare la colpa. Bella fa, ridi di questo, il mio flow fa, ridi di questo, le mie rime fanno, ridi di questo, player, ridi di questo, player, ridi di questo, la mia penna fa, ridi di questo, il mio flow fa, ridi di questo, le mie rime fanno, ridi di questo e lo fanno proprio su di te, piangi per questo. The fuck is that y'all see on TV?